Ogni storia è come una mezza di erba. Se ti piace il gusto ricompri la stessa. Ne vuoi un altro po'? Ma se è una troia che ti fa stare di merda, oltre ad usarla e poi buttarla, dice il pusher, non ritornerò. Ci sono mezze buone, difficili a trovarle. Quelle più scadenti, due soldi per comprarle. Quelle troppo mandate, quelle raccomandate da chi le ha già provate, ma non le ha assaporate. E c'è chi va a comprarsela per strada, con rischio che anziché una femmina gli fa capita un maschio. Magari poi una mezza ce l'ha pure a casa, l'ha fumata troppo tempo e quella non gli fa più un cazzo. Le mezze quelle giuste, so una su un milione, come le ragazze giuste, una su un milione. Non conta quanto pesa, manco quanto te svaria. Se trovi quella giusta te ne accorgi che viaggi a mezz'aria. Ogni storia è come una mezza di erba. Se ti piace il gusto ricompri la stessa, ne vuoi un altro po'. Ma se è una troia che ti fa stare di merda, oltre ad usarla e poi buttarla, dici al pusher non tornerò. Ogni storia è come una mezza di erba. Ne finisci una, ne hai già un'altra di riserva. Ogni storia è come una mezza di erba, finché non la fumi non sa mai che cosa ti aspetta. Ok. Sì, eh. E quanti amici fatti troppo dalle loro donne, eh? Spariti, legati, tossici decelebrati, man. Li incontri per strada, sembra che non ti abbiano mai conosciuto, come se avessi sulla pelle un cazzo di xema. Hai un cazzo di problema, quando ciò che vorresti gestire diventa ciò che ti gestisce, vuol dire che hai lasciato la trattazione del prezzo al pusher e ti ritrovi a fumare ciò che fumano i bimbi, tra un fumo di congetture del cazzo e baci finti che farebbero sorridere Walt Disney. Quindi vivo, gimme marijuana, gimme love, gimme gimme. A casa oramai ho la mia uso personale che mi ha aiutato a passare tutti i momenti di crisi. Sentita così buona, l'ho voluta seminare. Adesso è la pianta che vi è nata che mi dà sorrisi. Ogni storia è come una mezza di erba. Se ti piace il gusto ricompri la stessa, ne vuoi un altro po'. Ma se è una troia che ti fa stare di merda, oltre ad usarla e poi buttarla, dice al pusher non ritornerò. Ogni storia è come una mezza di erba. Ne finisci una, ne hai già un'altra di riserva. Ogni storia è come una mezza di erba, finché non la fumi non sa mai che cosa ti aspetta.